Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Puntata d'eccezione oggi, quella che potrete ascoltare sulle frequenze di Radio 24. Vi porteremo in Russia, paese fin qui solo sfiorato dal nostro programma, forse non tra i più glamour per i nostri giovani emigranti, ma che presenta però delle opportunità, come ascolteremo tra poco. Oggi una puntata decisamente esotica per gli ascoltatori di Giovani Talenti. Dalla Russia vi trasporteremo successivamente in Messico, dove andremo a conoscere un gruppo di ricercatori italiani emigrati. Avete capito bene, ne abbiamo anche là, in Messico. E infine, non dimenticate il nuovo appuntamento con Giovani Talenti in Europa 2017, che accompagnerà tre di voi a Strasburgo. A breve, la nuova parola chiave per partecipare. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright della ministra per la pubblica amministrazione Marianna Madia. Il cattivo reclutamento è un danno soprattutto per i cittadini, che hanno diritto di sapere che, grazie a concorsi trasparenti, possono entrare nell'amministrazione pubblica le migliori professionalità. E lo dobbiamo anche ai giovani brillanti, aggiunge la Madia, che dopo l'università devono poter accedere con concorso, altrimenti se ne vanno all'estero. Ed è una perdita secca per tutti. Beh, spiegato così è davvero semplice. Attenzione però a valorizzare questi giovani brillanti, magari senza grandi disponibilità economiche, fin dall'università. 36.000 studenti idonei in meno, oltre 7.000 borse sparite. L'effetto tagliola del 20% sul diritto allo studio a causa dei nuovi parametri di calcolo dell'ISE si è materializzato. Secondo i dati definitivi del MIUR, in un solo anno gli idonei e la borsa di studio sono crollati di un quinto, mentre gli effettivi beneficiari sono calati del 5%. A conti fatti, l'Italia può vantare meno di uno studente su 10 iscritto che può beneficiare di una borsa, mentre, come denuncia l'Unione degli Studenti Universitari, in Francia e in Germania ne usufruiscono rispettivamente uno studente su 3 e uno su 4. Studiare serve in ogni caso, perché è di giovani formati e con competenze internazionali che questo paese ha bisogno. Questo che i giovani sentono è un ritornello dove spesso vengono invitati a parcheggiarsi in un angolo e ad aspettare opportunità migliori. Il fatto che la nostra impresa italiana abbia caratteristiche di essere piccola e molto spesso familiare fa sì che quel momento di opportunità non arriverà mai. Antonio Lizzi, 34 anni, è primo vicepresidente della multinazionale russa ACMG a Mosca. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziari. Notizie importanti in apertura. Più tempo per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 per accedere al regime fiscale speciale previsto dal decreto legislativo 147/2015. Potranno infatti optare fino al 2 maggio per la misura agevolativa, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30% per l'anno d'imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo d'imposta 2017 e per i tre anni successivi. Questi chiarimenti contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere all'agevolazione irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un'apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. Cala al 35,2% il tasso di disoccupazione giovanile a febbraio, con una diminuzione di 1,7 punti rispetto a gennaio. Si tratta della percentuale più bassa degli ultimi 5 anni. Attenzione però, il risultato è stato raggiunto non tanto grazie all'aumento dell'occupazione, quanto piuttosto per l'incremento dell'inattività. Si conferma anche la tendenza alla crescita degli occupati concentrata nella fascia dei più anziani. Seconda edizione dei Fuori Classe della Scuola, progetto del MIUR e della Fondazione per l'Educazione Finanziaria, che lo scorso anno ha premiato 45 studenti. Tra i migliori studenti italiani sono però tanti quelli che il nostro paese forma per poi spesso regalarli ad altri paesi. Maria Piera Ceci ne ha parlato col sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Angela Donghia. Dobbiamo non più impoverire il lavoro, perché secondo me negli anni abbiamo portato tutto sul costo del lavoro, invece il lavoro è la prima, deve essere la prima forma di ricchezza, e non dobbiamo continuare ad impoverirlo. I nostri ragazzi devono sapere che anche nel loro paese ci sono le possibilità date a loro. L'esperienza Erasmus ha un'influenza positiva sullo spirito imprenditoriale. In Italia il 32% degli studenti con tirocinio Erasmus è intenzionata ad avviare una startup, il 9% l'ha già realizzata. Lo sottolinea Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio e che da questa edizione vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo tre di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovrete avere tra i 18 e i 35 anni. e dovrete inviare da ora fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve li immaginate un periodo di studio o di lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte coi dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di menzionare la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 27, ripeto, Europa 27. I tre racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi in studio al Parlamento Europeo di Strasburgo il prossimo ottobre. Vi ricordo ancora la casella email per partecipare, concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in Russia, paese probabilmente ostico per lingua e clima, ma dove chi sa cogliere le opportunità giuste al momento giusto ce la può fare. Nome: Antonio. Cognome: Alizzi. Età: 34. Città di origine: Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Sicilia. Studi: laurea in relazioni internazionali prima e un dottorato in management dopo. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2014. Per andare dove? Mosca. Perché? Lavoro: quale lavoro svolge attualmente? Vicepresidente di un gruppo editoriale russo che si chiama SMG. Dove? A Mosca. Tornerai? Nel breve futuro direi di no. La mia decisione di lasciare l'Italia non è stata dettata da esterofilia, ma piuttosto dalla voglia di futuro. Così Antonio ricordi il momento in cui hai mollato le ancore verso l'estero. Tra poco andremo sul concreto. Prima però ti pongo una domanda solo in apparenza generale. In Italia manca questo futuro, secondo la tua personale esperienza, e parlo ovviamente dei giovani. Se per futuro intendiamo quella capacità di leggere il senso che avrà domani quello che sto facendo oggi, direi che forse oggi questo futuro è un privilegio di pochi in Italia. L'estero, Antonio, segna la tua vita. Nasce a Wolfsburg, Germania, dove i tuoi genitori siciliani si erano trasferiti per lavoro, e quando hai 6 anni torni in Sicilia, in provincia di Messina. A 18 anni la decisione di ripercorrere la strada verso nord, stavolta verso Milano, per studiare in università. Che effetto ti ha fatto dover riprendere, seppure in tempi e con modalità diverse, la strada dell'emigrazione che i tuoi genitori avevano percorso tanti anni prima di te? Ci ho riflettuto molto e tante volte. Devo dire che probabilmente le due scelte hanno in comune il fatto di essere figlie di un tempo preciso. All'epoca era l'emigrazione di chi cercava un'esperienza migliore dal punto di vista lavorativo e non aveva grande istruzione. Nel mio caso, come tanti giovani che dal sud ancora oggi lasciano appunto il sud Italia per andare verso il nord, è la ricerca di una esperienza formativa più gratificante, una città più grande, un'università magari più prestigiosa. E perché hai scelto di studiare a Milano? Perché scienze della comunicazione prima e scienze delle relazioni internazionali poi? Avevo il sogno di fare il giornalista, e quindi se tutti sapevano che Milano è la capitale del giornalismo italiano. Avevo peraltro cominciato in un piccolo giornale locale che si chiamava La Città di Barcellona Pozzo di Gotto, e provavamo a fare qualche inchiesta che potesse dare un po', tra virgolette, fastidio ai potenti. Quindi l'Università Cattolica, che aveva questo corso di laurea in scienze della comunicazione, e poi la laurea magistrale in relazioni internazionali sono sembrate le scelte più logiche. Allora Antonio, premettendo che poi affronterai anche un dottorato, scegliendo per un periodo di avviare una carriera in ambito universitario, che idea ti sei fatto della qualità dell'insegnamento offerto dalla nostra università? L'idea che mi sono fatto del mondo accademico è che sia un po' dappertutto nel mondo come una nave da crociera. Trovi chi aiuta la scialuppa, chi aiuta le persone a trovare un intrattenimento. Se sei fortunato puoi incontrare persone a vario livello e a vario titolo che ti danno una mano e ti fanno capire quanto è importante quel periodo che stai trascorrendo lì in quella città e in quel posto. Io sono stato molto fortunato, devo dire, tanto, e lo voglio dire con molta forza, in un'università privata come la Cattolica quanto in una pubblica come quella di Verona. Dal 2007 un master prima, un dottorato di ricerca poi, che ti mette in contatto con un docente dell'Università di Verona che diviene tuo mentore. Dopo il dottorato ti trasferisci nella città scaligera per fare ricerca e insegnamento insegnare come docente a contratto. Quale mondo accademico scopri negli anni da un punto di vista prettamente professionale? Ma io ho avuto il privilegio di entrare dal punto di vista professionale in contatto con l'Università di Verona attraverso una persona che poi di fatto segnerà la mia vita, che è Federico Testa. Oggi è presidente dell'Enea, ma all'epoca era un professore di economia e gestione delle imprese. Federico ci ha chiamato, mi ricordo il giorno in cui mi ha detto vieni e fai parte della mia squadra, e mi ha fatto sentire intanto il senso di squadra. Eravamo una serie di docenti che a vario titolo gestivamo dei corsi, e l'idea era quella non di salire in cattedra ma di scendere tra gli studenti parlando con le imprese e cercando di far capire agli studenti che il loro momento in università era un momento assolutamente di passaggio. Penso che l'Italia dal punto di vista professionale abbia molto da imparare rispetto alle relazioni università-mondo del lavoro da paesi come la Germania, la stessa Russia, dove non esiste lo studente a tempo pieno, ma tutto sommato devo dire che ancora oggi c'è un po' di gap tra le competenze che servono in azienda e quelle che l'università propone. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Antonio Alizzi, 34enne, primo vicepresidente di una delle più importanti case editrici russe. Aveva imboccato le vie accademiche in Italia Antonio prima di scoprire che quella strada non gli offriva prospettive a lungo termine. Da lì il salto verso l'impresa, salto doppio che l'ha portato in Russia, distaccato da un'azienda italiana, fino al grande passo che l'ha proiettato in una dimensione di enorme responsabilità. Anche a est, insomma, le opportunità ci sono, magari con qualche sforzo in più. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. C'è però anche un però. L'entusiasmo che era stato il carburante per 4 anni, a un certo punto cedete il passo alla paura. Paura di non farcela, paura di aver sbagliato tutto, paura di non poter programmare il futuro senza certezze, paura di non avere più credibilità per poter ispirare i ragazzi, annoti con grande onestà intellettuale. Cosa hai fatto quindi? Ma di fatto dopo 4 anni di insegnamento a contratto e un paio d'anni di borsa di ricerca, il che vuol dire 1.400 euro al mese, l'insegnamento a contratto, nonostante dia grande prestigio, diciamo essendo semestrale, ti permette banalmente di avere un introito di circa 400 euro. Capisco che la voglia di questi ragazzi che sono davanti a me, che si aspettano un futuro ridente, non era quella che avevo io. E quindi guardo in faccia la realtà e parlo con Federico, ma parlo con me stesso e dico: posso continuare ad ispirare i ragazzi ma non avere soldi per pagare affitto e andare al ristorante e fare tutto quello che vuoi? E quindi ti sposti nel mondo dell'impresa. E quindi mi sposto nel mondo dell'impresa. Comincio a mandare curriculum in giro per l'Italia, anche per l'Europa, e mi sorprende l'assenza di risposte, o laddove le risposte fossero più o meno aperte ad un colloquio e mi presentava a fare un'intervista, quasi immediatamente le risorse umane, che sono il primo fronte con cui ti interfacci, mi facevano notare che avendo superato i 30 anni di età non potevo essere integrato in azienda con la formula dello stage. Si apre però un'opportunità. Dove cominci a lavorare e con quale ruolo? Comincio a lavorare per il gruppo Calcedonia, che ha sede a Verona, il 5 maggio 2014. Comincio a lavorare nell'ufficio comunicazione immagine. E dopo la normale trafila di training nel gruppo, dove ti viene proposto di andare e perché? Mi si dice missione, parti in missione, vai a Mosca in Russia da fine novembre. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La Russia non era mai stata nei miei piani, anzi ho reagito con un certo sconforto e sospetto quando mi è stata prospettata come possibile destinazione, ricordi. Qual è stato l'impatto personale e professionale con Mosca? Ma Mosca è una città che ti fa piangere quando arrivi e ti fa piangere quando te ne vai, così mi disse un caro amico italiano che vive a Mosca da tanti anni. In effetti l'impatto è stato intenso e molto duro. Sono arrivato il 26 di novembre, c'erano 15 gradi sotto zero ed in un aeroporto tra i 3 che ci sono a Mosca neanche il principale. Mi ricordo le lunghe attese in dogana, solo quella sera, tutti che ti assalgono proponendoti un taxi per arrivare in città. Devo dire comunque che nei mesi successivi, lasciando stare l'aneddoto della prima sera, i colleghi, i primi amici, le prime soddisfazioni professionali, Mosca ti offre piano piano un balsamo che ti permette di capirla e di capire che Mosca non è la Russia intera, è solo una metafora. Chiaro. Della Russia. Con l'azienda italiana resti 2 anni e mezzo circa, con un ruolo importante, quello di responsabile della comunicazione. La vera svolta, ed è quella che rende molto interessante e originale la tua storia, arriva lo scorso dicembre, quando ricevi una proposta difficile da rifiutare. Chi te la fa e per quale mansione? Ma è il presidente di un grande gruppo editoriale russo, uno dei primi 3 gruppi editoriali, che ha titoli di vario titolo, che si chiama Alexander Fedotov, che mi dice: voglio rivoluzionare con te il mondo dei media, voglio dar vita ad una grande azienda europea, abbiamo già interessi in giro per l'Europa, quindi propongo di diventare primo vicepresidente, che già nel nome era abbastanza una novità. Sono parole difficili forse a sentire in contesti come il nostro, eppure quanto queste parole motivanti, cariche di responsabilità, servirebbero anche qui per dare una marcia in più a giovani che hanno tanta voglia di fare? Tantissimo, direi. Sai, tante volte penso che i nostri giovani, me compreso quando ero qui, siamo depressi, perché anche cinici. Mi capita di visitare qualche master per l'Italia e chiedere ai ragazzi di mettercela tutta, di dare il massimo, e mi dicono: ma dare tutto il massimo per che cosa? Tanto ti dicono: aspetta, arriverà il tuo momento. Questo che i giovani sentono è un ritornello dove spesso vengono invitati a parcheggiarsi in un angolo e ad aspettare opportunità migliori. Il fatto che la nostra impresa italiana abbia caratteristiche di essere piccola e molto spesso familiare fa sì che quel momento di opportunità non arriverà mai. Attualmente di cosa ti occupi esattamente? Adesso sono vicepresidente di questa azienda, il che vuol dire di fatto che ho la prima responsabilità su di me, che è di far performare commercialmente l'azienda. Quindi tutto il fatturato dell'azienda con degli obiettivi molto sfidanti sono in capo alle mie responsabilità, e connesse a questo tutta la gestione dell'area marketing e dell'area eventi. Abbiamo le nostre due domande di rito per te, Antonio. La prima: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Vedo l'Italia un po' zoppicante. Questo mi dispiace. Cerco di venire spesso, non a caso sono qui a Milano proprio oggi per il Salone del Mobile, cercando di catturare le opportunità e condividerle attraverso un mercato di sbocco molto importante come quello della Russia. La vedo zoppicante perché i giovani sono depressi, e mi piacerebbe anche dare loro questo messaggio: aiutare l'Italia a correre, perché possiamo assolutamente tornare a correre. E c'è la seconda domanda, che invece è il tuo consiglio a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio. E aggiungo: ci sono opportunità anche in Russia? Voglio dire, ai trentenni, anche ovviamente anche a chi ha 22, 23, 24 anni, ma anche a chi ha 30 anni, 31, 32, di non perdere la speranza, perché come è successo a me, quando ho guardato in faccia la realtà, e quindi questo è il primo consiglio: guarda in faccia la realtà e poi guarda in modo ampio. Non bisogna necessariamente pensare all'estero come la soluzione delle soluzioni, ma l'estero offre, può offrire qualcosa. La Russia è un paese dove bisogna fare il visto per entrare, ma questo vuol dire che chi sta all'interno ci sta perché ha una ragione. Ci sono alcune imprese italiane molto interessanti, ma sempre di più imprese russe che sono votate a brand internazionali, che hanno acquistato anche patrimoni imprenditoriali italiani. Quindi assolutamente sì, cercare, scavare, segnalarsi, mandare email. I russi amano molto il calore umano e le vie alternative al semplice curriculum. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna l'appuntamento bimensile con le notizie dall'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni due settimane vi forniamo dritte utili per andare a lavorare in Europa. Sentiamo allora cosa ci dice questa settimana EURES Italia. Io sono Anna Melinelli dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES della rete EURES italiana. Noi oggi parleremo delle opportunità che vi sono per i giovani laureati, in particolare per i vari settori che sono praticamente i vari settori dell'alta tecnologia e l'alta specializzazione, perché in realtà le opportunità che noi oggi vi proponiamo sono quelle per la Danimarca. Con la Danimarca noi abbiamo siglato un accordo di cooperazione che prevede una serie di facilitazioni e di informazioni verso le persone che sono interessate a spostarsi in Danimarca e che possono usufruire di tutti i servizi che la rete EURES italiana può offrire loro per alcuni settori di cooperazione. I settori di cooperazione per cui, diciamo, è stato firmato l'accordo sono il settore delle biotecnologie e farmaceutico, il settore ingegneristico e medico, quindi anche specialistico, perché richiedono anche medici specializzati. Per quanto riguarda le attività e come poi il candidato si può proporre per queste offerte, possiamo dire che anzitutto rivolgendosi alla rete EURES italiana si può avere un supporto da parte dei consulenti EURES che si trovano sul territorio. In particolare queste offerte sono riferite al settore del biotech farmaceutico. Tutte le offerte possono essere comunque anche visionabili sul sito di Working Denmark, che è il sito danese in cui vi sono tutte le offerte e tutte le informazioni interessanti. Per i nostri neolaureati in particolare vi sono una serie di programmi e benefits che vengono dedicati ai dottorati di ricerca, offrendo per esempio dai 2.000 a 2.500 euro netti mensili per degli stage da fare in azienda per almeno 6 mesi. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Dalla Russia ci spostiamo in Messico, un altro paese non esattamente sulle principali rotte dell'emigrazione professionale italiana. Eppure, un recente censimento ha scoperto la presenza di numerosi nostri ricercatori in America Centrale, come ci spiega Emilia Giorgetti, addetta scientifica dell'ambasciata italiana in Messico. L'idea in questo caso nasce con la mia presa di servizio a Città del Messico. Io ho iniziato il primo di marzo del 2015 e ho aperto l'ufficio di cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambasciata italiana di Città del Messico ed è una delle prime cose che ho pensato di fare, cioè quella di capire se c'erano ricercatori italiani in Messico, chi erano, cosa facevano, dove stavano, perché si erano spostati in Messico, per formare con loro una rete. Cosa avete scoperto partendo da questa ricerca? Intanto che ci sono moltissimi fisici come me, geologi e ricercatori nel settore salute. Ho scoperto che questi ricercatori sono inseriti nel sistema ricerca messicano ai massimi livelli. Il sistema ricerca messicano è molto meritocratico, i ricercatori si suddividono in tre livelli e poi c'è un livello di ricercatore emerito, pochissimo accessibile evidentemente. Ecco, gli italiani stanno in grande maggioranza tra i livelli 2, 3 ed emerito. In quali città si concentrano? Moltissime città del Messico, ce ne sono a San Luis Potosí, nello stato di Guanajuato, ce ne sono un pochi anche nel sud. Come sono arrivati in Messico? Non è un paese, diciamo, sulle principali rotte o mappe geografiche dell'emigrazione per i nostri ricercatori. Come sono arrivati lì? Per i geologi è evidente. Il Messico e l'Italia sono paesi gemelli dal punto di vista perlomeno di molte delle sfide geologiche, terremoti, i vulcani, la geotermia. Per i fisici, che sono comunque molti, non saprei dire, quello che posso dire è una nota pessimistica da fisica, è molto difficile lavorare da fisici in Italia adesso e quindi probabilmente il Messico offriva molte più opportunità. Sono giovani per la maggior parte oppure sono anche di altre età? Dunque, ci sono giovani che stanno continuando ad arrivare, alcuni li ho messi in lista, ancora non li ho conosciuti perché stanno proprio arrivando. Ci sono anche persone molto anziane, ci sono degli emeriti, persone che sono in Messico da 30 anni. È molto difficile, ma riusciamo anche a dare dei numeri indicativi? Io ho censito qualcosa come 130 persone. Sono piccoli, però devo dire che in ambasciata nessuno sospettava che ci fossero così tanti italiani che stanno facendo ricerca in Messico. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.ambacittadelmessico.esteri.it. Un motivo per restare o tornare. I datori di lavoro privati che nel 2017 assumeranno una persona tra i 16 e i 29 anni iscritta al programma Garanzia Giovani potranno ottenere uno sgravio contributivo previdenziale fino a un tetto di 8.060 euro se l'assunzione è a tempo indeterminato e fino a 4.030 euro se il contratto invece è a termine, ma comunque superiore ai 6 mesi. Lo specifica l'INPS. L'incentivo vale sull'intero territorio nazionale con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email insieme ai vostri racconti per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.